Il punto di Stefano Folli. C'è un duplice dato che questa campagna elettorale sta mettendo in luce. Da un lato il successo di Beppe Grillo nelle piazze delle varie città, lungo i sentieri volutamente tradizionali di chi cerca il rapporto diretto con gli elettori. Dall'altro lato il successo imprevedibile e significativo di Oscar Giannino nei talk show televisivi. È il segno che un contributo di idee dette in modo comprensibile e originale rispetto ai logori schemi del politichese è in grado di attirare l'attenzione di un'opinione pubblica mai come stavolta desiderosa di novità. Non si sa quanti voti alla fine prenderà Giannino, ma il suo successo, insieme a quello già evidente e clamoroso di Grillo, dimostra più di ogni discorso quanto sia sfilacciato il sistema politico. I vecchi partiti hanno rifiutato troppo a lungo la realtà e rischiano di pagare alla fine un conto molto salato.